12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. La puntata di oggi è dedicata al tema della formazione, ovvero cercheremo di capire, in un momento in cui trovare lavoro sembra molto difficile, quanto conta il titolo di studio e se in realtà ci possono essere altre cose, altre caratteristiche personali che possono influire appunto nel trovare un'occupazione. Lo faremo da un lato avendo con noi Domenico Laterra, presidente dell'ente Eduforma, che ci racconterà un po' qual è l'impegno dell'ente, ma soprattutto anche ci racconterà di un libro che lui stesso ha curato, di come andare a individuare e certificare competenze anche al di fuori dei percorsi classici formativi. Avremo con noi oggi anche Simone Panizzutti, che ci racconterà invece il punto di vista delle agenzie interinali, ovvero come vengono valutati i curriculum e le persone che si candidano per trovare un impiego, e ci darà qualche consiglio utile da poter sfruttare appunto proprio nelle cose da poter mettere in gioco e in campo appunto nella ricerca del lavoro. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto al dottor Domenico Laterza, presidente di Eduforma. Domenico, benvenuto. Salve, buongiorno. Ecco, innanzitutto vorremmo un attimo capire Eduforma chi è e che cosa fa. Eduforma è una società nata nel 2003 e si occupa di formazione aziendale e consulenza direzionale per tutta quella che è l'area di gestione e sviluppo delle risorse umane. Benissimo, per quanto riguarda la formazione nello specifico, Eduforma che cosa fa? Allora, Eduforma è accreditata presso la Regione Veneto per tutta quella che è la formazione continua, piuttosto che la formazione superiore e l'orientamento. Fondamentalmente si occupa di quadri intermedi e dirigenti a livello di formazione legata alle relazioni, a livello di leadership, di gestione dei collaboratori, anche attraverso metodologie innovative quali outdoor, psicodramma, teatro d'impresa e quant'altro. Ho capito. Domenico, tu sei anche curatore del libro La valutazione delle competenze, strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze, edito da Franco Angeli. Ecco, ci racconti un po' questo libro, da dove è nato, qual è stato il progetto che ha dato vita a questa edizione? Certo, allora questo è un libro, è una cura di nato da un progetto regionale approvato nel 2009 in merito anche alla DGR 1758 proprio sulla gestione del capitale umano. Quindi input primario della regione era quello di dare delle regole chiave sulla validazione delle competenze acquisite attraverso percorsi formativi. Quindi c'è stata un'analisi di parecchi percorsi formativi strutturati sia in azienda che con persone disoccupate, evidenziando le metodologie formative più o meno adeguate per creare delle competenze reali, cioè competenze che potessero essere spendibili sul campo, non solo a livello teorico, ma anche con una cognizione pratica legata al fare. Ho capito. All'interno del tuo libro si fa riferimento a competenze formali e competenze non formali. Sì. Ecco, qual è la distinzione e come appunto si può andare a rintracciare, ecco, appunto queste competenze non formali proprio con il processo di cui tu parli, di validazione e certificazione? Allora, la competenza formale è quella acquisita attraverso un titolo di studio, una laurea, un diploma, un'attestazione di partecipazione, è un qualcosa di formalizzato con un attestato finale. Vero è che nella società in cui stiamo vivendo questo conta, sì, sicuramente è fondamentale, ma la maggior parte delle aziende cominciano a muoversi su tutto quello che è non formale, cioè tutto quello che ho acquisito anche attraverso percorsi di formazione o altro, non necessariamente siglato da un attestato. E questo crea tutto quello che non formalmente, quindi non direttamente riconosciuto, va a creare comunque delle competenze a supporto di quella che è la formalità acquisita precedentemente. A dire il vero, ci sarebbe anche una terza variabile, che è la competenza informale, cioè tutto quello che ho acquisito nel percorso della mia vita facendo N attività non direttamente riconducibili all'attività lavorativa primaria, ma comunque utili. Esempio, faccio il barista o la barista mentre studio all'università, acquisisco una serie di competenze trasversali informali legate alla gestione del cliente, all'approccio comunicativo, alla gestione delle obiezioni, e qualora vada a laurearmi in psicologia piuttosto che in economia e commercio e devo relazionarmi con un certo tipo di clientela, ho già informalmente acquisito delle competenze che possono essermi utili al lavoro finale. Bene, questo in effetti è sicuramente un punto molto importante, ovvero a volte si pensa che sia solo il percorso formativo vero e proprio di cui si hanno appunto attestazioni, lauree, certificati, che possa essere importante nella ricerca di un lavoro, ma in realtà poi c'è anche tutto un altro aspetto che riguarda appunto la vita personale, poi anche oltre che professionale, di una persona. Domenico, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, per averci presentato anche il tuo libro. Grazie a te. E a presto. Buona giornata. Grazie. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi ci ritroviamo qui in studio. I can't get these memories out of my mind. It's some kind of madness. It started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. I have found just madness keeping us afloat. But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of madness was taking control. Yeah. And I have finally realized what you need. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto a Simone Panizzuti, psicologo del lavoro, con il quale capiremo un po' meglio come funziona il mondo delle agenzie interinali. Ciao Simone. Ciao Giovanna. Allora Simone, parliamo di agenzie interinali. Quando un ragazzo si propone, presenta il suo curriculum, su che cosa avviene la valutazione? Allora, come prima cosa, generalmente si ha già una fotografia del profilo da ricercare. È una fotografia che viene data dalle aziende, dalle realtà organizzative che stanno cercando la persona, e generalmente si tratta di competenze, di percorsi di studi, di esperienze fatte e anche di caratteristiche personali. Ecco, in base a questo si fa una griglia di parametri per i quali avviene poi la valutazione. Per quanto riguarda la formazione, quanto conta e come viene valutata? Allora, la formazione è sicuramente importante, molto importante. E come formazione possiamo individuare sia il percorso scolastico, che molte volte è proprio prerogativa rispetto alla scelta di una persona rispetto ad un'altra, però mi sento di dire anche che la maggior parte delle volte non è solo la formazione ad essere saliente, ma si cerca di individuare quelle persone che a fianco ad un percorso formativo abbiano fatto anche delle esperienze in linea col percorso, ecco. In merito a questo, come vengono valutate? C'è un modo per identificare, quindi anche qualche consiglio che possiamo dare a giovani in ascolto che si apprestano appunto a candidarsi, a presentarsi a un'agenzia interinale, in merito proprio a queste competenze altre, queste caratteristiche diverse dal percorso formativo vero e proprio? Allora, secondo me uno dei fattori fondamentali è sicuramente la motivazione, quindi anche il modo in cui le persone si presentano e sanno presentare il percorso che hanno fatto. Per cui se ci sono delle esperienze formative alla base, cercare di metterle in relazione anche con un percorso proprio professionale. Alcune volte capita che soprattutto da giovani o persone che tentano di riqualificarsi non abbiano avuto delle esperienze lavorative diciamo certificate anche con un contratto vero e proprio, per cui anche ci sono fatti degli stage o anche delle esperienze per esempio associative, e secondo me è bene mettere in luce tutto quello che si è fatto, mettendo particolare attenzione nel presentare i processi che si sono gestiti, che si ha avuto modo di osservare, di fare, e gli strumenti utilizzati. Ecco, questo secondo me è di grandissima importanza. Ecco, in merito a questo ultimo consiglio così che ci hai dato, ci puoi magari fare un esempio un po' più pratico, giusto per capire un po' meglio, per dare proprio un'indicazione più precisa, cioè che cosa intendi con mettere in luce i processi, strumenti? E accade che alcune volte le persone dicano, rispetto magari all'esperienza fatta, ho fatto l'operaio. E ho fatto l'operaio vuol dire tutto e niente. E se invece una persona va a specificare ho fatto delle saldature di un certo tipo, ad elettrodo oppure ad arco, è già un contenuto, un'indicazione in più che viene data. Se una persona dice ho utilizzato delle macchine a controllo numerico, per esempio impostandole a partire dalla lettura del disegno meccanico, è già differente rispetto a dire ho lavorato in un'azienda metalmeccanica. Per cui più andiamo nello specifico nel presentare i processi e gli strumenti, più arricchiamo quelle informazioni che sono chiave per una nostra valutazione. Bene Simone, sei stato molto chiaro e molto preciso, quindi insomma il consiglio è di dare una mappatura di sé molto approfondita, ecco, non rimanere più sulla superficialità o comunque non andare solo a concentrarsi su appunto l'aspetto formativo, ma anche tutto quello che poi è la nostra esperienza lavorativa e non solo. Simone, io ti ringrazio di essere stato qui con noi e ti saluto. Ok, ciao. Ciao Simone. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Siamo giunti al termine di questa nostra puntata dedicata al tema della formazione. Quello che ci hanno raccontato i nostri ospiti ci sembra che molto chiaramente indichi come, al di là del percorso formativo scolastico classico, ovvero dalle scuole all'università, quello che conta oggi per la ricerca di un lavoro è sicuramente altro rispetto a questo, ovvero competenze anche di tipo non formale, competenze informali o comunque caratteristiche personali che possono entrare in gioco, che possono essere spendibili e che magari non sempre è così facile individuare, ma soprattutto anche saper presentare. Quello che ci ha detto Domenico Laterza, presidente di Eduforma, proprio va in questa direzione, ovvero si è cercato di delineare, di trovare dei sistemi di validazione e certificazione proprio di competenze altre rispetto a quelle formali scolastiche, appunto le cosiddette competenze non formali. Dall'altro Simone Panizzutti, nell'ambito appunto dell'agenzia Interinali, ci ha spiegato bene proprio come queste possano influire e decisamente avere lo stesso peso poi nella selezione di una persona appunto che si propone per la ricerca di un lavoro. Per oggi è tutto, prima di salutarvi vi do una brevissima anticipazione sulla prossima puntata in cui tratteremo il lavoro nel settore sociale e quindi mi raccomando ci risentiamo alla prossima puntata. Io per oggi ho finito, vi saluto, bye bye. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.